Milan, dai, veloce uscire dal bagno che sta iniziando la sigla. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 9 e 7 minuti, una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan insieme a voi, fino alle 11 con voi, 800 24 00 24 per chiamarci, oppure 349 238 6666. Una Milano sempre più spettrale, è innegabile, sempre più spettrale, con poco traffico, con poche persone in giro, con poche macchine e così. D'altronde avete sentito la situazione con le nuove novità è questa. Tanto tutti a casa, i figli ormai a Milano ci siamo abituati, in tutta Italia abituatevi perché rimarranno a casa per un po', niente scuola, parleremo anche di questo. Parleremo di tante tematiche, non solo legate al coronavirus, ma anche insieme a voi, con l'Alpino in regia, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro vestaglione oggi, vestaglione Manera, quindi io volevo fargli fare il manerometro, volevo farlo stendere qui sul tavolo di Radio 24 e misurarlo effettivamente per capire se con le scarpe arriva a 1,82 m, che è la distanza stabilita dalla scienza per stare tranquilli. Il nostro manerometro lo stendiamo, Leonardo Manera, e lo usiamo così come un attrezzo utile di questi tempi. Vai, Alpino. Enthusiasm about the future. Ci vuole proprio entusiasmo. Ho tante cose da dire, ma prima voglio dare subito una precedenza al primo ospite, il cui appello mi ha molto colpito proprio umanamente. È il sindaco di Castiglione d'Adda, Costantino Pesatori. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Le rubiamo pochissimi minuti perché ci sono impegni ben più gravosi che lei deve affrontare in questi giorni. E mi ha molto colpito quel video messaggio che è stato mandato da tutte le TV, che è girato sui social, in cui lei dice in pratica: aiutateci. Lo riassumo così. Siete nella zona rossa, di cosa avete bisogno esattamente più di tutto? Ma diciamo che in questo momento l'appello era legato al fatto che abbiamo parecchia gente a casa che con febbre e che non ha la possibilità di essere visitata perché non abbiamo i medici di base, uno. E secondo luogo, diciamo, l'altra parte, diciamo, dell'appello era sempre legata all'istituzione di un punto d'emergenza presso l'ospedale di Codogno di Casal Pusterlengo, affinché, diciamo, le persone possano in qualche modo recarsi proprio per la prima emergenza, per una radiografia o per le necessità, diciamo, sì, immediate. Sì. Ma perché lei, da quanto ha detto, sembrava quasi una situazione, non dico di abbandono, è chiaro che è tutto difficile, ma di difficoltà estrema nella vita comune. Cioè, vi sentite un pochino abbandonati oppure capite che la situazione è complicata e sentite le istituzioni vicine? Ma la situazione è sicuramente complicata, oddio, questa sensazione un po' di abbandono comunque c'è, devo essere sincero, a seguito del mio appello qualcosa sembra si stia comunque muovendo, però l'appello, cioè? È stato fatto proprio per... non ho, diciamo, delle notizie certe in merito, ma sembra che siano arrivati dei medici, sembrerebbe, ecco, arrivare comunque dei medici dell'esercito, sembrerebbe che qualche medico di base in più possa arrivare. Però ecco, non ci sono risposte certe al momento, però ecco, la sensazione era proprio quella di essere in qualche modo inascoltati, perché questa situazione di carenza, diciamo, soprattutto dei medici di base, era da parecchio tempo che stavo sollevando e non avevo comunque risposte in merito. Tenga conto che, insomma, il numero significativo dei decessi in Castiglione d'Adda c'è comunque stato, sì. E ripeto, tanta gente è comunque in casa con la febbre. Per cui la situazione è comunque critica e quel grido d'aiuto lo direi ancora adesso. Insomma, quando si dice, certo, quando si dice il virus è democratico, so che anche nella sua famiglia qualcuno, insomma, è stato colpito, è vero, non è vero, non lo so, se ce lo può dire, insomma, per dire che la situazione colpisce tutti, è democratica purtroppo. È democratica, perfetto, dico semplicemente questo. Senta Sindaco, lei ha capito quando si potrà uscire da questa situazione? I cittadini per esempio rispettano le norme, che lo so che sono brutte, sono stringenti, ma è un tema fondamentale. No, infatti, cioè, il problema è che inizialmente la popolazione castiglionese era anche comprensiva e collaborativa. Ora, diciamo, il tempo sta passando e la gente comincia a stancarsi un po' e non rispetta più quelle che sono queste misure restrittive. Il mio invito, e non mi stancherò mai di farlo, è proprio quello di rispettare queste misure, ossia di evitare, diciamo, di girare e formare per il paese, formare assembramenti, continuo a dire di entrare nei negozi con tutte le precauzioni del caso, ossia con la mascherina. Evidentemente però, ripeto, la gente si sta stancando e queste misure diventano effettivamente troppo restrittive, anche se bisogna pensare che prima di tutto la nostra salute, insomma, e la salute degli altri, il rispetto comunque degli altri, e dovrebbe portarci in qualche modo ad adottare queste misure. Sì. È così, Sindaco, in bocca al lupo, però certo l'appello è dire aiutateci, mi sembra un appello condivisibile ed è un appello da inoltrare alle istituzioni, a chi di dovere, come si dice in queste formule. Sì, esatto, forse ripeto, sono arrivato lì perché nonostante, diciamo, i miei solleciti istituzionali non avevo ancora ottenuto risposte a quel momento, insomma, per cui mi auguro che la situazione possa in qualche modo cambiare e si possa uscire prima possibile da questo disastro in cui siamo comunque capitati. Sì, io la ringrazio, Sindaco Costantino Pesatori, sindaco di Castiglione d'Adda, perché il tema è proprio quello, cioè rispettare le regole. Oh, ragazzi, qui adesso devo fare una tirata, perché se ci dicono di rispettare delle regole, non bracciarsi, non baciarsi, non stare a distanza, certo molti mi dicono ma quale spettrale, poi io ragazzi stamattina a Milano l'ho vista spettrale, di solito quando esco alle 7, 7 e un quarto c'è già traffico, stamattina non c'era nessuno che girava, poche persone, molti mi mandano ma guarda la foto della tangenziale piena, e lo so, mi dispiace, questa è un po' l'ora di punta, molti si spostano un po' più tardi e quindi adesso trovate traffico. Io l'ho trovato molto molto diminuito rispetto al solito. La questione del rispetto delle regole, ma se dicono di rispettare delle regole, cioè bisogna rispettare le regole, abbiamo detto e lo ripeto oggi, sono gli scienziati che devono parlare. Se ci dicono di stare a distanza e non baciarsi, no, invece c'è quell'atteggiamento che vedo anche un po' sui giornali di dire ma dai, su, ripartiamo, facciamoci un bel aperivirus, facciamo, dai, troviamoci insieme, reagiamo a questa cosa, abbracciamoci comunque, ma allora andate a farvi fottere, cioè io dico in maniera poco scientifica. Cioè l'italiano, se lo so che è brutto, se ci dicono che bisogna rispettare delle regole, non baciarsi, non toccarsi, stare a distanza, non stringere le mani, ma poi c'è sempre quello ma dai, su, ma non crederai mica che c'ho, ma dai, ma su, ma forza, e va bene, e allora andiamo avanti così. Per esempio questa storia degli anziani, allora c'è il grande dibattito a che età si è anziani, io non lo so. C'è quello che ha 90 anni e non è anziano, Berlusconi appena mollato la Pascale e si è messo con una di 30 anni, con un'altra deputata, tra l'altro tutte uguali, le normotipo Berlusconi, delle donne Berlusconi, tutte uguali dal punto di vista delle fattezze fisiche, vabbè. Questo non c'entrava, quindi Berlusconi probabilmente se uno gli dà dell'anziano si offenderà. Crepè si è offeso, Crepè è spesso da noi, ha detto ma come vi posso dire che a 65 anni io devo stare in casa, come si permettono di dire, e c'è gente che ci dice ma 70 anni, 75 anni, ma io non lo so, dico solo se bisogna ascoltare gli scienziati, ascoltiamo gli scienziati, adeguiamoci a quello che dicono, se no ognuno fa di testa sua, se no ognuno fa come quello sciatore che ha preso da Vo Euganeo, un comune che fino a un mese fa non conoscevate, ma adesso credo che tutti lo conosciate. Vo Euganeo ha preso è perché lui doveva andare a sciare. voleva andare a sciare, quindi ha violato il divieto di uscire dalla zona rossa e è andato a sciare. Cosa è successo? E questo ci dispiace, si è rotto il femore e quindi quando l'hanno soccorso hanno detto: ma lei da dove viene? Da Voe Euganeo. Ma cosa ci fa qua? Ma cosa ci fa qui a sciare? Ma io non lo so. Che succede? Hai la faccia come il culo. È partito un premio Giachetti? Non lo so, è partito un premio Giachetti. No, però, cioè, la questione è, ragazzi, ma non so, è partito un premio Giachetti. Boh, vabbè. Cioè, capite? Se no, le regole, oggi, giustamente Simone Spezia mi segnala l'editoriale di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, cioè è il momento in cui ci viene chiesto uno sforzo di responsabilità personale e collettiva. Collettiva perché è fatta di tanti comportamenti personali. Per cui, Milano reagisca, facciamoci l'aperitivo. Devo dire anche il sindaco Sala che ha fatto l'aperitivo con Cattelan, mi hanno detto, no? Con la foto. Va bene, oh, ragazzi, cioè, allora, state lontani, però il sindaco Sala può fare l'aperitivo per dire no, ma Milano riparte, Milano reagisce. Ho capito, facciamola ripartire dopo che abbiamo rispettato le regole. Tra l'altro c'è altro tema sul quale ho detto da due giorni dovrebbe parlare solo la scienza, invece ci sono giornalisti che vanno a parlare del coronavirus, espertoni che si improvvisano infettivologi per parlare del coronavirus. Vi faccio sentire per esempio la domanda, l'abbiamo tagliata, ma a un certo punto forse conoscerete nel mondo del calcio Jürgen Klopp, questo tedesco che ha vinto tutto con Liverpool, insomma è un grande allenatore. È a Liverpool, in Inghilterra, in questo momento, e in conferenza stampa gli chiedono a Jürgen Klopp, manager, allenatore di calcio, un parere sul coronavirus. E lui giustamente in inglese risponde così. Look, what I don't like in life is that a very serious thing, a football manager's opinion is important. E dice, non mi piace nella vita che su un tema così importante sia richiesto il parere di un manager sportivo. E poi va avanti. Capite? Cioè parlino gli esperti, dicano fate questo, fate quest'altro. Non chiedete a un manager di sport che cosa ne pensa del coronavirus, ha detto, perché l'ha detto all'inglese, coronavirus come Di Maio, perché lui l'ha detto all'inglese, gli inglesi lo chiamano virus, noi siamo in Italia, in italiano chiamiamolo virus. Cioè, capite? Invece no. Per il resto, i bambini sono a casa. Eccolo qua, oggi mi sono tenuto Michele Serra sulla maca, fa tutto un intervento sul tema del vuoto. Il vuoto come opportunità, il vuoto che ci fa paura, no? L'horror vacui, il vuoto che è denigrato, il famigerato vuoto di valori. Ma in realtà Michele Serra dice ha un fascino il vuoto. Addirittura scrive Michele Serra oggi: ho fatto la ola quando ho sentito che la psicologa Brunella Gasperini ha detto la noia fa bene ai bambini. Non si deve stare in ansia se a scuole chiuse i figli non sanno bene che fare, ai pomeriggi vuoti, alla noia, ai bivacchi indolenti, alle camminate senza meta. Io mi sento a mezzo secolo di distanza profondamente debitore. Cerchiamo in questo duro interludio di non sprecare almeno il dono dell'improvviso vuoto che ci si è spalancato attorno, seducente, irripetibile. Ho capito da questa maca di Michele Serra due cose: che ha ragione sul senso del vuoto e che Michele Serra non ha un figlio in casa adolescente in età scolastica. Questo anche, o più di un figlio. Queste due cose ho capito: che ha scritto delle cose giuste, ma anche che non ha in casa in questo momento uno o più figli in età scolare. Questo ho capito dell'intervento di Michele Serra e scusate se mi innervosisco perché credo di interpretare il sentimento di milioni di genitori che non ce la fanno letteralmente più ad avere in casa dei bambini, ragazzini, ragazzine, bambine, adolescenti, ragazzi. che godono di questo momento di interruzione della scuola e che gettano nello sconforto e nella disperazione più totale i genitori. E infatti oggi Massimo Gramellini in qualche modo risponde a Michele Serra sul Corriere della Sera. La chiusura delle scuole fino al 15 marzo, ma di quale anno? Chiede tra l'altro Gramellini. Vabbè, è stata accolta con serenità dalle famiglie italiane. Ci sono madri che per par condicio chiedono la riapertura dei manicomi. Padri che minacciano di darsi fuoco in piazza con la PlayStation del figlio tra le mani. Quanto alle chat dei genitori, in queste ore risultano talmente motivate che nessuno si stupirebbe se la formula del vaccino saltasse fuori proprio da lì. Si scherza, naturalmente, però la convivenza continuata coi figli e la raffica di compiti assegnati dai professori rappresenta un problema serio, specie se non si hanno abbastanza nonni o abbastanza soldi per pagare dei sostituti. Dice il saggio, trasforma il problema in opportunità, ma forse il saggio è un eremita e ignora quanto sia difficile condividere lo stesso spazio H24 con un bambino che vuole stare sempre con te o con un adolescente a cui invece la tua sola presenza procura brividi di fastidio. Aggiungo io, forse l'eremita è Michele Serra, evidentemente. Una soluzione sembra essere la riscoperta della solidarietà. Ci sono gruppi di amici che hanno deciso di assumersi a turno la gestione mattutina della propria prole e della prole altrui. Esiste anche un'altra riscoperta possibile, quella della noia. Ecco, torniamo qui alla noia. Lasciare ogni tanto i figli a un destino di sbadigli e fantasticherie, trascurarli per il loro bene. La noia, a piccole dosi, resta il miglior vaccino contro l'ansia da prestazione di tutti, genitori compresi. Se però pensate che i figli debbano anche ogni tanto studiare, forse dovreste ascoltare la presidente del Centro Educazione Media di Pavia, che si occupa di formazione sulla didattica digitale e risponde al nome di Alexandra Berndt. Buongiorno e benvenuta, Alexandra. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Eccoci qui. Allora, si parla tanto a questo punto di scuola a distanza. Che vuol dire formare sulla didattica digitale? Mi sa che ne abbiamo tanto da fare in Italia e lo stiamo scoprendo così all'improvviso. Sì, purtroppo no, in realtà non lo stiamo scoprendo così all'improvviso, perché tante scuole si sono attivate già anche in passato e noi come Centro Educazione Media di Pavia abbiamo fatto tante formazioni, tante attività, abbiamo conosciuto tantissimi insegnanti molto molto molto interessati e volenterosi a lavorare su questa cosa. Il problema che scopriamo però invece adesso è che è un discorso molto poco omogeneo, perché negli ultimi anni le scuole sono lasciate un po' da soli nella decisione a voler appunto intraprendere questo percorso o no. Sono i dirigenti che scelgono in autonomia, c'è il dirigente più avanti, diciamo così, c'è il dirigente magari meno avanzato, c'è anche un discorso tecnologico, credo, in Italia, un gap forse tra nord e sud è evidente, perché la tecnologia è fondamentale in questo campo, no? Sì, sicuramente la tecnologia è fondamentale e anche qua abbiamo una grande differenza, perché ovviamente le scuole che hanno una mentalità aperta in questo senso, che hanno già sperimentato in passato percorsi vari di didattica digitale, ora si trovano avvantaggiati e con loro ovviamente i ragazzi che frequentano queste scuole, con loro invece che si trovano in contesti, chiamiamoli ancora un po' più tradizionali, ora sono un po' tagliati fuori, perché magari abbiamo la situazione in cui ci sono ragazzi che ricevono giusto qualche indicazione sul registro elettronico su che cosa fare, in altra realtà invece abbiamo docenti che fanno delle lezioni online in aula virtuale, quindi abbiamo un rischio al momento di un, chiamiamolo anche, digital divide educativo, sì. Che però è una cosa che sì, è un po' una violazione del diritto allo studio, mi sento certo. quasi di dire, perché tutti i ragazzi hanno il diritto di continuare a studiare e di lavorare, quindi noi cerchiamo con quello che possiamo fare nel nostro piccolo soprattutto di affiancare, di accompagnare gli insegnanti in questa situazione che non è facile. Non perché... è facile, chiaro. No, quali sono le resistenze? Sono più culturali o più magari di un corpo, parlo del corpo insegnante, sì, di un corpo insegnante magari scarsamente tecnologico, insomma come sarei io, sono formati da una generazione un po' più anziana, non sono dei nativi digitali. Quali allora, sono le resistenze sì. che avete notato di più? Io non parlerei oggi neanche più di resistenze, perché credo che abbiamo accertato in quello che abbiamo visto settimana scorsa e anche questa, all'inizio di questa settimana, che ormai tutti i docenti sanno che dobbiamo attivarci, che dobbiamo essere flessibili e che dobbiamo fare qualcosa, e noi crediamo anche fortemente che sia importante fare qualcosa, non bisogna essere super tecnologici, non bisogna essere dei maghi della tecnologia. Importante è esserci, far capire agli studenti che la vita quotidiana un po' va avanti, perché questo è anche un fatto molto rassicurante per i ragazzi in questa situazione, che può magari anche creare un po' di ansia. E diciamo è più la difficoltà che alcuni docenti hanno, perché se sono completamente nuovi in questo contesto della didattica a distanza, ovviamente si sentono anche un po' in difetto, hanno paura magari di sbagliare, di fare qualcosa che non è al livello, chiamiamolo così, e poi si sentono magari anche in difetto nel confronto dei ragazzi. Ma sì. anche qua starei molto attenta, perché d'accordo che sono nativi digitali, che stanno tutto il giorno davanti allo sì. smartphone, alla PlayStation, come dice lei, però dall'altro canto non sono neanche loro abituati a lavorare in questa modalità. Infatti sono molto abituati, dico per esperienza, a stare davanti allo smartphone, come dice lei, sanno tutto di PlayStation, ma poi se devono, papà mi scarichi il foglio esatto. dal registro esatto. elettronico, ma come? Cioè, voglio dire, ma sei un mago che mi sa installare anche un computer della NASA, se devi giocare a Fortnite e poi il registro elettronico non lo sai aprire. Devo dire sì. Alexandra Berta, che molti dicono e mi scrivono, ricordate i nonni, ma certo ci sono i nonni, i santi nonni, i miei figli adesso sono con mia mamma, quindi per dire, oppure molti dicono, ma volete fare i genitori una volta buona, pensate che sia come fare giardinaggio, cioè richiamala al senso della responsabilità. Allora, questo è un tema interessante, Berta, il genitore deve fare i compiti con i figli, deve seguirlo passo passo, oppure questa lo sa che è una sciagura, cioè di colpo i genitori si sostituiscono un po' agli insegnanti in qualche modo. Se posso permettermi, i genitori sono i peggiori insegnanti in assoluto. Ecco, quindi... brava. Io lo confermo tutti no. i giorni, lo verifico, tutti i giorni lo verifico. Assolutamente. No, quello che qua ovviamente è sempre... Allora, parliamo di emergenza e sappiamo che le cose non possono essere perfette, però il consiglio che noi possiamo dare qua, più sul fronte anche degli insegnanti, è di essere molto chiari in quello che assegnano ai ragazzi, sia per quanto riguarda la tecnologia, nel senso che noi abbiamo visto delle situazioni in cui venivano inviati codici per aule virtuali e lezioni online, ma i ragazzi non riuscivano ad entrare, quindi bisogna essere molto consci di quello dello strumento, chiamiamo tecnologico, che si vuole utilizzare, e dare istruzioni dettagliate ai ragazzi. Dopodiché anche sul lavoro didattico bisogna essere molto preciso, ma non solo dire fai il compito a pagina 8 e poi lo correggiamo quando ci rivedremo in aula. Anche questo al momento è molto pericoloso, perché i ragazzi si perdono, non ma hanno sì, cioè se non c'è una esatto. dietro non, infatti esatto. vede un messaggio, sfatiamo il mito dei nativi digitali, i ragazzi sono davvero poco abili alle lezioni, alle scadenze online. Io, docente quarantenne di lettere, sono molto più esperta. Però assolutamente, perciò devo dare per esempio entro quando il compito deve essere consegnato, in che modo, per esempio mandami un documento, caricalo su Google Classroom, quello che poi l'insegnante ritiene più giusto. E poi è importante, soprattutto perché le scuole adesso rimangono chiuse, di dare anche un feedback, di dare un riscontro sul lavoro fatto. Sì. Sempre in modo virtuale. Sì, perché se diventa fate questi, poi quando ci rivedremo li correggiamo, sì, è un po' l'assegnazione dei compiti stile vacanze estive, no? Che poi vanno a finire dove vanno a finire. Vabbè, esattamente. No, guardi che, cioè, se, no, dopo richiedono, non prescritto dalla ricetta del medico, un genitore che stia lì con il mitra puntato a dire forza, tira fuori, facciamo un po' di matematica, no? Quel senso di che ti porta a un'angoscia totale, diciamolo francamente, ecco. Assolutamente no, si spera di no. Diciamo che ormai tante istituzioni, tanti gruppi si stanno anche formando, stanno offrendo moltissimo supporto per gli insegnanti, contenuti già elaborati a livello digitale, quindi l'offerta formativa per tutti in questi giorni sta venendo a galla e la si vede. La migliore è questa, guardi, scusi se la migliore è questa. Ho installato una camera una videocamera, così tengo sotto controllo se mia figlia fa i compiti in remoto, ci scrive un ascoltatore. Sì, c'è anche questo, no? Ovviamente qua dobbiamo però anche fidarci un po' dei ragazzi, nel senso che loro hanno, magari non sono abituati, però è il momento giusto anche per insegnare un po' di autonomia, un po' di responsabilità per quello che vogliono fare, che questo appunto non è una vacanza, tutti vorremmo che lo fosse, ma non lo è. E credo che sia un momento che insegna tanto a tanti o a tutti noi. Guardi, io ho appena ricevuto un messaggio da mio figlio dicendo sto facendo i compiti, io ci credo, insomma, poi dopo controllo ovviamente. Sì, ma guardi, mia figlia mi ha detto mamma non so se i miei compagni ti vorranno tanto bene se fai questa cosa così. Vabbè, ho capito, però. Perché noi stavamo così bene anche settimana scorsa, però ovviamente. C'è qualcuno che deve fare lo sporco lavoro, come si suol dire. Io la devo ringraziare e salutare, grazie a Alexandra Berta, presidente del Centro Educazione Media di Pavia, che si occupa di formazione sulla didattica digitale. Sì, poi ci sono quelli, ma passate, un ascoltatore mi scrive, passate tempo coi vostri figli e smettetela di lamentarvi. Ma cosa ne sa l'ascoltatore? Io passo ore e ore e ore coi miei figli, quindi sono pure da solo a crescerli, quindi non lo so, ma che frase è? Sì, passate del tempo coi figli, che frase è? Ma cosa ne sa l'ascoltatore di quanto ne passo io, Peter Bescapè, Elisabetta Fusconi, non cito gli altri perché non hanno figli in redazione, Leonardo Manera, ma cosa ne sanno? Insomma, è una frase un po' vuota. Sì, è un consiglio così, sembra il consiglio del Papa, passate tempo coi figli e non lamentatevi, punto, all'Angelus. Abbraccio l'ascoltatore invece che mi scrive, starò a casa fino al 16 marzo con un figlio disabile e come al solito me la prenderò in quel posto. Capisco, cioè ci sono tante situazioni effettivamente complicate sulle quali si è innestata una situazione che le complica ancora di più. Allora, Vestagliona Manera è pronta dopo la pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, hai sentito? Pare che intorno al 10, 11, 12 aprile dovrebbe arrivare pure un asteroide sulla Terra. Poi? Ci manca qualche altra cosa? Se in Italia è tutta la vita che non si rispettano regole, non si rispettano regole, ci va una legge marziale, ci vanno i militari. Quando ci si arriva a questi punti ci va una legge marziale, ci vanno i militari. La settimana scorsa dicevi tutto il contrario di quello che stai dicendo adesso. Dobbiamo ripartire, c'è voglia di ripartire, apriamo le scuole, facevi il pazzo perché non sapevi dove mettere i tuoi figli, si blocca questo, si blocca quello, le partite, adesso dici il contrario di tutti, ma sei proprio un ipocrita, ti fanno anche parlare alla radio, falso! Ma no, ma a sto punto per questo ascoltatore meriterei un premio Giachetti, ma io non ho mai detto riaprite le scuole, ho detto sarò stato disperato e sono ancora perché le scuole sono chiuse, come tutti, ma mi adeguo nella disperazione. Mi ha dato un premio Giachetti. Hai la faccia come il culo. Mi ha dato il premio Giachetti, l'ascoltatore. Sì, anche mi dicono che ho lanciato la campagna Abbraccia un cinese insieme a Manera. Leonardo Vestagliona? Sì, io ci sono. Eccoci. Ci sentite? Sì, benissimo. Ma la campagna Abbraccia un cinese, io non la rivendico, come dire, non la rivendico, lapsus freudiano. La rivendico e non la rimpiango e non la rinnego neanche per mezzo secondo. Se non avete capito il senso che allora voleva era dire contro le discriminazioni. Esatto, contro le discriminazioni, cioè di non identificare il cinese essere umano come untore, se non capite il senso di quella campagna che rifarei, penso anche tu Leonardo, 10, 100, 1 milione di volte, forse non è neanche, non vale la pena spiegarmela. Perché forse sì, anche non, perché non sembra capito. Tra l'altro che il paziente famoso, famigerato paziente zero, poi non sia stato un cinese, tra l'altro. Ma sì, no? Ma cioè, voglio dire, c'è stato un momento in cui c'è gente, forse voi, quelli che non abbracciate il cinese, siete quelli che nei video li prenderebbero a pugni, come hanno fatto degli incivili bastardi razzisti quando hanno incontrato uno dai tratti asiatici, e invece no. Questo è vero, è anche vero quello che diceva l'altro spettatore, cioè che tu la settimana scorsa avevi una posizione che è l'opposto di ma quella quale che opposto? Dici adesso, cioè, io sarò sì, hai detto apriamo le scuole, ma non è vero, aperitivi, mojito, spritz, americano sbagliato, sì l'hai detto, mi ricordo, ma cosa stai dice, dicendo? Americano sbagliato in onda in onda, semmai sì, forse se dicevo vi prego riaprite le scuole come appello, come cioè speriamo che si possano riaprire, però dopodiché se le tengono chiude vabbè, si sa che quello che dicono i giornalisti vale nel momento in cui lo dicono, un sì, attimo dopo non vale più, altro sì, che i politici era legato ai politici, sì, però sì, dico altro che i politici. Senti questo messaggio: Milan, io di figli ne ho 6 da 2 a 14 anni di età, io e mia moglie vorremmo contribuire a trovare un vaccino al più presto per rimandarle a scuola tutte. Pensa, tutte. Ma io ho detto, io ho fatto l'opposto con mio figlio di quello che si consigliava prima. Cioè io ho detto prendila come una vacanza, via. Ah, tu così. Papà i compiti, ma che cacchio, ma no, chiudi sti quaderni, giochiamo alla PlayStation. Non ti capiterà mai più nella vita di farti un mese completo di vacanza in inverno, quindi goditela, vai fuori, giochiamo a pallone. Giochiamo a pallone, anzi gli hai anche detto andiamo a farci un gran bello spritz. No, di quello dici tu ai tuoi figli, americano sbagliato, raga! Ma no. Quindi, ecco, a tutti coloro che scrivono a me, credo anche a Leonardo, sulla campagna Abbraccia un cinese, la farei uno, com'è la trasmissione che si intitola? Uno, senza nessuno, 100.000 volte, va bene? Perché è stata un presidio anti-razzismo e razzisti che siete voi che non l'avete capita, va bene? Tra l'altro ho sentito citare questa cosa anche in alcune trasmissioni, mi sembra anche la Meloni ha detto sì, una volta, ma che abbraccian cinese questi che andavano a dire adesso non cinese. Io non abbraccerei manco la Meloni in questo momento, se questo ci hanno detto di non abbracciare, cioè non abbraccerei la Meloni, come non abbraccerei un cinese o un marocchino sì, o ma non è stato filippino. Capito come spesso succede il senso di quella iniziativa. Vabbè, sì, in alcuni casi non è stato capito, in altri casi mi sa che viene solo banalmente strumentalizzato a fini politici. Posso invece sì, mandare un pensiero a tutte le persone che hanno patologie diverse. Manda un pensiero. Sì, alle persone che hanno patologie diverse dal coronavirus. Stai facendo un caffè, che in questo momento. Sì, sto facendo caffè. Scusa. Va bene, manda un pensiero, però fai pure una moca. Sì, vabbè. Ecco, versato il latte. A quelli che hanno patologie diverse dal coronavirus che in questo momento sembra che non esistano più. Invece anche chi ha problemi di salute anche gravi, bravo, continua a esistere. Bravo, Leo. Pensavo anch'io e lo faccio con più serietà rispetto a te, visto che sei lì che... Buono? Sì, sì, ho anche una tazza nuova. Bellina, sì. Vabbè. Aspetta un attimo. di cioè così siamo a sti livelli, ragazzi. E d'altronde rispetta le regole, sì, da un anno e mezzo lui è un pre-coronavirus. Comunque hai ragione Leonardo, ci sono tanti immunodepressi, dializzati, trapiantati, malati oncologici, sicuramente dimenticherò qualche categoria, mi dispiace, insomma, che ci scrivono e ci dicono e sono in una situazione che noi di fragilità perenne, costante, noi nel senso quelli che sono sani, non hanno patologie, ci siamo riscoperti tutti più fragili di colpo, cioè tutti quanti, no? Tutti quanti, questo è. Che fai? Sei addormentato? No, stavo ascoltando le tue parole. Pensavo ti fossi scottato la lingua. Comunque. Non lo so, va bene. Dai, allora, sentiamo Rossella da Roma. Buongiorno, Rossella. Buongiorno, Alessandro. Buongiorno. Eccoci. Noi siamo abbastanza affranti perché in realtà si parla continuamente delle scuole chiuse. Sì. Scuole chiuse in tutta Italia. Cioè, io sono al lavoro, in una scuola superiore di Roma, sono al lavoro insieme ad altri 25 colleghi, sì. Abbiamo una scuola elementare di fronte a noi che è regolarmente aperta, con altri colleghi. Cioè, aperta non agli studenti ma al personale. Esattamente, sì. Allora io volevo solo ricordare questo, che la scuola italiana non è fatta solo di studenti e docenti, è fatta di personale non docente, altrimenti detto personale, certo. ATA, certo. Cioè ausiliari, tecnici e amministrativi, che sono le persone che fanno muovere poi la scuola. Solo che non se ne parla mai. Noi siamo oggi tutti qui presenti, non abbiamo nulla da fare perché non abbiamo l'utenza. Sa perché? Perché c'è una differenza tra la chiusura delle scuole, che è stata fatta nella zona rossa, lì proprio la chiusura delle scuole vuol dire anche il personale, e invece nel resto d'Italia è stata fatta la sospensione della didattica, che vuol dire non si fanno lezioni ma la scuola è aperta, cioè c'è il personale. Sì, cioè, se un genitore o qualcuno vuole entrare e chiedere delle informazioni, può farlo. Però anche perché sa che succede, Alessandro? E poi noi sentiamo magari fuori gente che ci dice: ah, voi state 15 giorni a casa. No, questo è bene dirlo, ha fatto bene a dirlo. Cioè, sono il personale, a parte nella zona rossa, in tutta Italia è regolarmente al posto di lavoro, e tra l'altro non hanno neanche molto da fare, giustamente, perché non ci sono gli studenti. Quindi i dirigenti, tutto il personale ATA, non i professori, che i professori lavorano magari con la didattica digitale. Perché è stata fatta la sospensione della didattica. Quindi loro si trovano lì senza aver nulla da fare. Beh, potrebbero fare dei lavori in nero. Potrebbero sanificare gli spazi, come si suol dire. No? Sanificare. Che poi anche lì, sanificare. Ma poi se arriva uno con il virus il primo giorno, cioè non è che... Sì, si possono sanificare gli spazi, ma poi il virus viene portato dalle persone. Comunque, io ribadisco il mio consiglio. Se avete tempo a disposizione, fate del lavoro in nero. Eccolo lì. Dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Come sempre, tutti bravi a dispensare buoni consigli e i migliori genitori sono quelli senza figli. Domanda per i genitori che sono incapaci di passare un paio di settimane full time con i propri figli: ma cosa li mettete al mondo a fare? Curiosità. Dai Mila, non ti supo di niente, tanto la giri sempre come vuoi. Ma no, ma scusi, però l'ascoltatrice dice: se cosa mettete al mondo i figli a fare se non sapete? Ma ragazzi, ma la gente lavora, cioè adesso se uno lavora come fa a stare a casa coi figli? Sarebbe anche bello andare due settimane via. Prendo un aereo se mi fanno atterrare da milanese un torre da qualche parte e vado via coi figli. Ho capito, ma come faccio? Vabbè, trasmette maniera per due settimane. L'ascoltatrice diceva, in generale anche chi può stare a casa con i figli poi magari si lamenta di dover stare con loro, fare i compiti eccetera, era questo? Sì, allora va bene, ma ragazzi, tu hai, i tuoi genitori facevano i compiti con te? Mai una volta. Anche mio anche, fratello qualche volta, mio padre e mia madre mai anche, una volta nella anche vita. I miei anche, cioè, questa cosa moderna dell'idea che bisogna fare i compiti coi figli io non so da dove sia innestata nelle nostre menti. Sì, ogni tanto io ricordo che ogni tanto mia mamma, se avevo una difficoltà, un fratello, tra fratelli magari, mi aiutavano, ma di base questa idea di fare i compiti coi figli è una cosa nata negli ultimi 15 anni. Non, ed è degenerata in maniera totale, con genitori disperati che si mettono lì a ripassare le potenze, a ripassare i segmenti, la formula dell'arco della circonferenza. Ma che cavolo state facendo? E lo faccio anch'io, purtroppo. Ma non era così un tempo. Non dovrebbe essere così. E che cavolo, basta. C'è una soluzione comunque, sì? A tutto questo. Ritirarli dalle scuole. No, dire a tuo figlio quando sta facendo i compiti, anche se non controlli tanto, dire sì, è giusto così, bravo. È giusto. Questa così. È la soluzione che consiglio. Ma la formula dell'arco della circonferenza è 2 per 3, 6, sì. Bravo. Sì, bravo. Ottimo, ottimo. È raggio per 2, sì. Ottimo. Sì, e anche della, da un lato, anche della super, anche della circonferenza, raggio per 2. Sì, bravo. Giusto. Così, da un lato non mi sento in colpa perché ho collaborato comunque per i compiti. Dall'altro non devo però mettermi lì a ovviamente imparare di nuovo tutto. Gli dici questo tra un sorso di spritz e l'altro. Sì, bravo. Sì, certo, naturalmente. Vai Leo. Vabbè, ma stiamo scherzando, anch'io sono un genitore in parte responsabile, dai. Tutto sommato. Allora, il coronavirus ci sta obbligando a fare i conti con le nostre vite e allora ho pensato alle cose che io vorrei vedere nella mia vita prima che la paura ci spenga la fantasia. Vorrei vedere un po' di cose curiose. Per esempio, vorrei vedere Matteo Salvini che si fidanza con una donna nera extracomunitaria irregolare. Vorrei vedere Giuseppe Conte vestito male. Vorrei vedere Sfera e Basta che canta il liscio. Vorrei vedere Bruno Vespa che per un anno non fa un libro. Vorrei vedere Matteo Renzi che dice quella volta ho sbagliato. Vorrei vedere una cosa impossibile, vorrei vedere il Milan che torna a vincere uno scudetto. E vorrei vedere la Juventus che vince il campionato di Lega Pro. Vorrei vedere un calciatore che va in bianco con una ragazza. Vorrei vedere Barbara D'Urso con le luci normali del giorno. Vorrei vedere Maurizio Costanzo che tiene un corso di dizione. Vorrei vedere Gigi Marzullo calvo e Greta Thunberg che va in giro con un diesel Euro 1. Vorrei vedere eletto un candidato sindaco che in campagna elettorale promette di demolire le case abusive. Vorrei sentire in chiesa un prete senza eco e vorrei andare in chiesa dopo che mi sono confessato sentire anche il prete che mi dice i suoi peccati. Vorrei vedere Belen che per essere sempre bella beve l'elisir del dottor Meazza. Vorrei vedere Paolo Mieli in tuta. Vorrei vedere il Papa con l'abito bianco macchiato che dice si è rotta la lavatrice. Vorrei vedere Di Maio tra 10 anni per capire cosa farà. Vorrei vedere Gentiloni che urla e Alessandra Mussolini che invece per una volta non urla. Vorrei vedere la Giamaica che vince i mondiali di calcio per vedere soprattutto come festeggiano dopo. Vorrei vedere Cannavacciuolo che fa delle porzioni normali e non solo Minion. Vorrei vedere una ragazza che mangia gli spaghetti senza sentirsi in colpa. Vorrei vedere Roberto Carlino che quando dice parola di Roberto Carlino riesce a dire Roberto con una R sola. Vorrei, incredibile a dirsi, vorrei vedere la metropolitana di Milano che torna piena come prima del coronavirus. E vorrei vedere la prima ragazza della quale mi sono innamorato tanti anni fa e darle quel bacio che non le ho mai dato. E invece vorrei baciare ancora quell'altra ragazza come quel giorno in quel bar vicino alla stazione. Un bar qualsiasi che però in quel momento era casa nostra, anche se quel bar non l'avevamo mai visto prima. Di tutto questo non so cosa riuscirò a vedere, ma finché avrò la fantasia per immaginare, avrò ancora la forza di continuare a vivere con gli occhi bene aperti, come in questi giorni difficili di coronavirus. Bravo Leo, però non ho capito perché le ragazze, cos'è? Se mangiano gli spaghetti si sentono in colpa? Sfida sempre. Lughetti. Sfida Lughetti, sì. Fa no col dito indice, dice, ma che dici? Ma che dici? Non ho mai visto una ragazza mangiare gli spaghetti senza interrogarsi sulla vita. Sulla vita, ma sulla vita nel senso della vita dei fianchi o sulla vita... Sulla vita dei fianchi. Dei fianchi, vabbè. Giorgio da Milano, buongiorno Giorgio. Buongiorno, buongiorno. Che ci dice? Io sono un ex medico rianimatore, sì, attualmente in pensione, quindi conosco molto bene la realtà ospedaliera e soprattutto quella delle reparti di rianimazione e di terapia intensiva. E che ci dice? Volevo dire questo, che è qualche anno che gli ospedali pubblici, sottolineo gli ospedali pubblici, sono penalizzati in termini di organici medici e infermieristici. Ed oggi che è venuto fuori il bubone, la patata bollente da gestire, sì, chiaramente scoppiando, ci troviamo in braghi di tela. Cioè non ci sono abbastanza posti, questo in... No, non è che ci sono abbastanza posti, non ci sono abbastanza personale. È personale, sì. Un medico rianimato, i posti un conto, infatti hanno aperto un sacco di posti, di letti di terapia intensiva. Mm-hmm. Ma poi aprire i letti vuol dire avere del personale ultra specializzato che segue questi malati gravi. E formare dei medici rianimatori non si improvvisa nel giro di 15 giorni, di una settimana, di un mese. Certo. I medici rianimatori sono dei medici specialisti. Gli infermieri che lavorano nei reparti di rianimazione sono infermieri che fanno un lavoro di altissimo livello dal punto di vista qualitativo. Allora, accoglici oggi e non aver previsto nel passato, perché anche nell'ordinario i reparti di terapia intensiva, sì, sono sempre stati sotto organico. La dice Giorgio, accorgersi oggi è un problema. Mi perdoni, perché quando poi incombe il giornale radio non possiamo sforare, ma il senso è stato chiaro, detto da lei che ha lavorato tanto in rianimazione. Mi devo fermare, la prima ora finisce qui, tra un attimo dopo il giornale radio riprendiamo. Uno, nessuno, 100 Milan. Tra l'altro insegnanti categoria di privilegiati che comunque non perderanno una lira del loro stipendio, zero, mentre magari gli educatori sono a casa senza stipendio, tante altre persone sono a casa senza stipendio. Sono una nonna disperata di un bambino di 9 anni, l'hanno caricato di compiti, ieri sera alle 9 sono crollata. Ma povera nonnina, ma giustamente, ma... Caro Leonardo, è così, perché effettivamente le lezioni digitali si sono un po' trasformate in molti casi in fate tutti questi compiti, storia questo, geografia questo, matematica questo, geometria questo, e poi ci rivediamo quando riaprono le scuole. Sì, beh, anche mio figlio ha ricevuto l'elenco dei compiti da fare. Che è un po' il senso del, appunto, è estate, fate questi compiti, ci rivediamo a settembre, poi dopo te la vedi tu, genitore, con i figli. Non vorrei, rispondendo all'ascoltatore di prima, capisco, non iniziamo però a fare, come dire, la guerra che ci sarà tra ma i dipendenti pubblici saranno comunque tutelati, gli altri no. È vero, ci saranno molte categorie che perderanno il posto di lavoro, l'abbiamo detto, tutti coloro che per esempio lavorano con magari partita IVA, collaboratori in settori che sono stati molto colpiti, rischiano di perdere il posto di lavoro, cassa integrazione, e già si vedono i primi segnali. Succederà, lo so, è una cosa molto dolorosa a cui far fronte prima o poi. Come va nel mondo dello spettacolo? Sempre lì fermi? È un disastro perché tutti quelli che avevano anche compagnie teatrali, spettacoli, sono completamente fermi. La maggior parte, come dicevo l'altro giorno, è gente che guadagna il giusto per vivere, quindi non sa nemmeno come fare in questi mesi. Non è che c'è qualcuno che ti rimborsa in qualche modo. Comunque, allora, adesso devo soprattutto chiedere scusa. Ecco, devo chiedere scusa al senatore Giorgio Pizzol, buongiorno, ex senatore per la verità. Come sta? Buongiorno dottor Milan, io sto abbastanza bene, grazie. Sì, perché avevo detto, ma no dai, vedrà, sì, il 20 febbraio, insomma, è prevista la decisione sui ricorsi, sono 771 i ricorsi, contro il taglio, o meglio il ricalcolo del vitalizio, e lei mi aveva detto: ma no, non decideranno, ecco, rinvieranno, e in effetti è stato tutto rinviato. È stato proprio così. E lei, ecco, arrabbiato? Lei è arrabbiato? No, io non sono arrabbiato, dottor Milan, ti mancherebbe altro. Anzi, le faccio i miei complimenti, perché lei dimostra la volontà di voler rettificare le notizie, cose sì, che sì. molti suoi colleghi non fanno. Quando uno sbaglia, le esprimo la mia sincera gratitudine, perché lei, come mi aveva promesso, vuole rettificare la notizia, e questo per me è molto importante. Va bene, questo no, ma è giusto, insomma, che se io avevo detto no, vedrà il 20 febbraio, vedrà, se non è così la richiamo, e infatti io l'ho detto, magari fosse così, ma non è così. Siamo qui. Ma intanto, perché spieghiamo bene, lei adesso dice che non è arrabbiato, però magari un po' infastidito lo è, perché il ricalcolo è stato già fatto ed è operativo, lei ce l'ha decurtato il vitalizio. Dal primo gennaio 19. Lei ci ha anche detto l'altra volta: sa quanti vitaliziati nel frattempo, in attesa di una decisione, purtroppo sono passati a miglior vita, come si suol dire. Ho il numero di 74 deceduti che non avranno mai giustizia, per esempio, perché sono morti prima. Ecco, c'è un aspetto umano, per esempio, che queste trasmissioni trascurano quasi sempre. Sempre persone che sono molto anziane, quindi io, che ho 78 anni, sono tra i più giovani. Quindi, e sono in buona salute, ringraziando sempre facendo corso, che i ricorsi vengano accettati, perché se venissero respinti a questo punto non è neanche importante il merito, è importante il fatto che ci sia il processo, che il processo si chiuda, che venga fuori questa sentenza. È la notizia più importante. Perché siccome l'altra volta ho sbagliato data, adesso non esiste una nuova data entro cui decidere. Ecco, questa è la notizia, che non esiste una nuova data. L'ultima comunicazione ufficiale dalla commissione contenziosa, che è il famoso tribunale interno del Senato, è una del 13 febbraio, ed è la riunione del 20 febbraio, quella famosa di cui parlavamo prima, alle ore 19, non avrà più luogo. Io non ho avuto nessun'altra notizia. I giornali dicono tante cose che possono essere vere, che io non conosco, e che io non posso dire che siano vere o false. Leonardo, aspetti che chiedo a Maria. Leonardo, rimangono, Pizzol dice, tra coloro che sono sospesi, cioè non si sa il loro ricorso il vitalizio, non si sa, sine die, è stato rinviato sine die in questo momento. Ecco, non credo che ci saranno aggiornamenti a breve, insomma, penso che il senatore possa... Leonardo Manera... guardi, purtroppo siamo in un momento così in cui è difficile scherzare, però appena passerà questa maledetta questione del virus, lei troverà sul svolgimento di questo processo molti spunti per la sua ironia veramente simpatica. Per esempio, ne do uno io, per carità, ognuno ha il nome, con massimo rispetto. Siccome ci sono anche due membri esterni di questa commissione che però si sono astenuti, astenere, sono stati sostituiti. Il senatore lo sa, Pizzolo, ma sentite, ascoltatori, Leonardo Manera, chi ha sostituito, con chi è stato sostituito un membro esterno. Si tratta dell'ex presidente del Tribunale del Papa, di Papa Bergoglio, e si chiama così: Giuseppe della Torre del Tempio di Sanguinetto. Sembra un personaggio di Fantozzi, con massimo rispetto. Il signor Giuseppe della Torre del Tempio di Sanguinetto deciderà sui ricorsi dei vitalizi. Secondo te, con un nome così, Leonardo, aspetti, con un nome così, che è propenso a stare dalla parte, la brutalizzo, del popolo che chiede la decurtazione, o dei senatori ex che dicono i diritti acquisiti? Il nome suggerirebbe non proprio dalla parte, diciamo, del popolo, ma è un nome però talmente lungo che lascia immaginare i tempi ancora più lunghi, devo dire. Giuseppe della Torre del Tempio di Sanguinetto. Vabbè, lei lo conosce, senatore Pizzol? Guardi, io non conosco, e le dico, a me come ricorrente non è arrivata nessuna notizia ufficiale di queste nomine. E comunque, se è vero che le nomine sono state fatte, adesso francamente non credo che sia il caso di fare ironia sui nomi. Vabbè, dai, su. E anche sul fatto che giudicheranno o dalla parte del popolo o dalla parte, perché sembra che dalla parte del popolo ci sia il Movimento 5 Stelle, dalla parte dei cosiddetti privilegiati ci siano voi. Vabbè, la gente pensa un po' così, onorevole senatore. La gente pensa male e purtroppo è informata male. Va bene, però se lei va, però se lei va nel suo paese e chiede a 100 persone, fa un sondaggio così molto, molto alla buona, vedrà che 95, butto una cifra, diranno: insomma, sti vitalizi. No, ma guardi, vitalizi. La gente è male informata. È male informata. Le dicevo l'altra volta, noi siamo nella commissione interna, nella corte interna di giudizio, perché così hanno scelto i 5 Stelle, dicendo al popolo: vedrete che questi giudici daranno torto ai ricorrenti. Ma è vero, è vero, senatore, che questi giudici giudicheranno qualunque essi siano. Secondo diritto devono giudicare, perché questa è la norma. Sì, ma certo. Tanto guardi, ci riaggiorniamo. Mi dica solo questa cosa veloce: è vero che lei, da informazioni interne di un suo collega, ha scoperto che il presidente della Camera Fico avrebbe ammesso? Però qui è un retroscena. Fico e Di Maio hanno ammesso davanti al senatore Francesco De Notaris, ex senatore. Sì. Che loro personalmente sono convinti, Di Maio, Fico, sono convinti che i ricorrenti hanno ragione. Vabbè, questo così, però, come facciamo a dimostrarlo? Non eravamo lì. Le suggerisco, dottore. Ma secondo lei Fico viene qui da presidente della Camera insieme al senatore De Notaris a dire sì, l'ho detto, no, non l'ho detto. Comunque, questo è, e su questo la salutiamo, ma torniamo. Secondo Pizzol, il presidente della Camera Fico, il ministro degli esteri Di Maio, senti un po', Leonardo Manera, incontrando il ricorrente senatore Francesco De Notaris, hanno ammesso in Camera Caritatis che hanno ragione i ricorrenti, ma ormai loro devono portare avanti questa battaglia politica. Leonardo, dobbiamo prenderla così, per fede questa vicenda. Ma vediamo se sortiranno dei risultati. Ti vedo molto appassionato su questo. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora Leo, come va la vita dalle tue parti al Bar Jimmy? Stamattina sono andato a bere un caffè al Bar Jimmy, okay. Mi diceva che avrebbe bisogno di una sottoscrizione per mantenere vivo il Bar Jimmy, perché ormai non è più frequentato. Chiede soldi. Vabbè. Quindi, come tutti, come tanti, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci una mano sul cuore. Il mio consiglio è di passare dal Bar Jimmy in via Carnia, e anche se non prendete niente, di lasciare comunque un 5 euro, 10. Ecco. Qui anche 20, se vi cresce quella banconota da 20, no? Se non volete rischiare di entrare, eccetera, perché avete paura del coronavirus, potete così aprite un attimo la porta e lasciate la banconota. Così Bar Jimmy, che già è in difficoltà perché accanto sta aprendo un locale molto più grande, così avrà modo di sopravvivere in questi tempi complicati. Fatelo e poi sarete ricompensati. Sarete ricompensati come? Scusa, no, adesso nella vita ultraterrena. Ma tu di quei 5 euro tu quanto ti becchi? Giusto per capire, come percentualmente? Il 20%. Mamma mia, sembri Mauro Meazza. Sì, infatti me l'ha consigliato lui. Insomma, vabbè, ragazzi, questo è. Allora, alle 10:20, tra poco ci collegheremo, caro Leonardo, con il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Sai perché? Perché sarà stato avvistato molto presente un orso. Un orso è risvegliato dal letargo M49. Ecco, quell'orso lì che è andato in letargo e adesso si è svegliato, tra l'altro prima del previsto, e cerca del gran miele. Proprio, allora non è una leggenda, gli orsi e il miele, non è Winnie the Pooh, e cerca delle prede, insomma deve mangiare, l'orso fa l'orso. E allora è ripartita la manfrina che ci porteremo quest'estate sull'abbattimento dell'orso. Sì, sì, mi ricordo che era intervenuto anche Carla Rocchi, se non sbaglio. Va bene, devo dire che oggi sei molto partecipe della scaletta, insomma, sei sempre sei accalorato. No, era intervenuta, ricordi che Carla Rocchi era intervenuta l'anno scorso sulla questione. Vabbè, dai, sentiamo prima Cristina, dalla provincia di Brescia. Cristina? Buongiorno, sì. Sono un'insegnante di scuola media, sì. E siccome stavo lavorando a casa mandando materiale per i miei alunni, ho sentito l'annuncio che avete letto, l'avviso che avete letto di un vostro ascoltatore che diceva un messaggio. Soliti privilegiati che sono a casa a prendersi lo stipendio. Era il messaggio di un ascoltatore. Sì. No, che dice comunque sono, essendo dipendenti pubblici, ma è un bene, cioè non è che vi debbano decurtare, però l'ascoltatore allora, era un po' arrabbiato a dire. Io volevo dire, guardi, velocemente due cose, so che avete poco tempo. Prima di tutto, se lui ritiene che gli insegnanti siano dei privilegiati, basta semplicemente laurearsi, si fa 2 anni di corso abilitante, supera gli esami scritti e orali e diventa anche lui un privilegiato, accettando poi lo stipendio che viene dato agli insegnanti italiani, che è, come sappiamo tutti, la metà o anche meno di quello degli insegnanti dell'Europa. Quindi basta semplicemente laurearsi, fare 2 anni di corso, sono 6 anni di studio e poi uno diventa un privilegiato. Oh, brava, poi, brava. Punto primo. Secondo, prima di sparare nel mucchio, sappia che molti docenti sono a casa e non si stanno limitando semplicemente a indicare un elenco di compiti agli studenti, ma stanno chattando con i propri alunni, ricevono i loro materiali, scrivono tutte le cose nella chat apposita delle classi virtuali, le cose, le criticità, i punti di posta degli elaborati, li reinviano gli alunni. Insomma, lavorano, fanno il telelavoro, inviano video lezioni, audio lezioni, e per fare tutto questo ci vogliono ore e ore di lavoro. No, ma guardi, Cristina, Cristina, adesso lei ha ragione, e reinvito gli ascoltatori, tutti, ma di tutti i settori, che non diventi questa del coronavirus un'occasione per fare le guerre tra tu sei privilegiato, tu no, tu sei dipendente pubblico, tu invece, io invece perdo il posto di lavoro. Lo so, cioè, visto dal proprio particolare, la realtà è diversa. In generale cerchiamo di reagire come una comunità, ecco, se riusciamo. Dopodiché ci sono, questo è impossibile, ma lo so, infatti, però il mio dovere è fare questo tipo di appello. Però se diventa cerchiamo di alimentare le guerre fra le varie fazioni, fomentiamo la dipendenti pubblici, razza di privilegiati, figli del demonio, come dice il clown Neronello. Voi che avete comunque anche in tempi di coronavirus lo stipendio assicurato, vitaliziati, richiamate Pizzol, vitaliziati voi che avete, vabbè, e andiamo avanti così. Senti qui, Leonardo, hanno già detto mamma 3500 volte, sono solo le 10:20, non sono ancora riuscita a fare colazione, vi prego salvatemi, messaggio di Donatella dalla provincia di Pisa. Questa perché... è la realtà, al di là sì, di perché... Certo, perché è in una regione in cui da questa settimana sono chiuse le scuole, qui in zona, per esempio, Milano, ci si sta già abituando. Poi insomma, bisogna confortare i genitori, perché anche i figli si abitueranno alla nuova situazione e impareranno a fare cose comunque diverse. Questa è la realtà nella stragrande maggioranza dei casi, le persone che conosco, forse che conosci anche tu. Poi, se ci volete fare il predicozzo, ma state coi figli, se no non li fate, no, se non siete capaci di stare coi figli, tutti bravi coi figli altrui, per dirla elegantemente. Va bene, mi arriva un messaggio oggi, Manera non ha voglia, non lo stressare, Milan. Simone. Oh, bravo, finalmente un ascoltatore che ha capito. Ti faccio i complimenti, bravo. Stanotte ho dormito male, ho dormito poco, ho dormito male, quindi ha ragione lui, ha capito. Non rompermi, stavi dicendo, dai, concludi la frase, quindi... No. Tornerei magari a fare un riposino, invece non posso. Comunque ha ragione l'ascoltatore. Guarda, alle 11 ti scolleghi con la tua app e torni a dormire. Ma perché abbi ancora pazienza? Tieni duro quella mezz'oretta. Sì. Va bene, alle 10:25 minuti. Io no, andiamo a Claudio dalla provincia di La Spezia. Il presidente Fugatti lo troviamo tra... ci ha chiesto 5 minuti di attesa e quindi lo sentiamo tra un attimo. È sull'orso. Claudio dalla provincia di La Spezia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono sindaco del comune di Borghetto di Vara, nella provincia della Spezia, nonché presidente dell'ambito territoriale sociale che raggruppa 7 comuni. Volevo semplicemente intervenire per dare un piccolo contributo, perché ho sentito il messaggio dell'educatore che diceva: noi educatori siamo a casa. Ecco, noi nel nostro piccolo, quindi io do la nostra esperienza, nel nostro piccolo tutti gli educatori, operatori sociali, assistenti alla comunicazione che seguono i ragazzi a scuola li abbiamo mandati semplicemente a casa dei bambini che necessitano a casa, di sì, supporto. A casa dei bambini, cioè non certo. A casa, nel senso, no, a casa dei bambini. Se l'abbiamo mandati semplicemente a casa sembrava una cosa brutale, quindi, no, invece li avete mandati a casa dei bambini. Eh sì, perché comunque c'è sempre c'è la possibilità di fare dei ripassi, di attivare altre attività ludico-sportive che possono essere fatte tranquillamente in maniera individuale. Quindi è perfettamente inutile lasciare a casa. Lasciare a casa nel senso di senza lavoro. Invece si mandano, invece che fare il loro lavoro a scuola, aiutano e supportano la famiglia a domicilio, dando quindi anche un supporto vero alla famiglia. Sì, è anche personalizzato. È anche personalizzato. Noi qua in Regione Liguria abbiamo la fortuna di avere anche un progetto ad hoc che è Famiglie Solidali, che ci fa un po' il cappello, che ci permette di attivare queste soluzioni. Però è vero che si può fare in qualunque posto. Ribadisco, noi siamo privilegiati per essendo comunque piccoli. Esatto, comuni, volevo dire questo, sindaco, cioè in una comunità piccolina magari sono poche unità i bambini e le bambine, non so, i ragazzi che hanno bisogno di una mano, sono pochi gli educatori. Io lo vorrei sempre calare su una città come Roma, sì, vero, come Milano, come Napoli. No? Però si può fare lo stesso, ci sono i dirigenti, ci sono gli assistenti sociali che si mettono a fare dei programmi, a gestire le cose in maniera, nella maniera più corretta, ma per venire incontro alle persone, non per fare c'è la propaganda, gli educatori stanno a casa e c'è qualcun altro cattivo che non fa lavorare. Certo. No, le soluzioni a volte lavorando, ovviamente, perché tutto questo è lavoro, ma le soluzioni si possono trovare anche nella nostra burocrazia. Quindi ha perfettamente ragione, Claudio, e la ringrazio. La provincia della Spezia. Ora io vorrei trovare una notizia che incuriosisca Manera. Mi è venuto quasi un po' uno stimolo così. Allora, guarda, ecco qua questa gli interesserà. Berlusconi che molla la Pascale. No, sta con una. Io pensavo che lei avesse mollato lui, sai, quando ho visto la notizia, non ho letto l'articolo. No, lei tra l'altro sta vivendo sto dramma, dice: ora un'altra è col mio cagnolino, cioè Dudu. E questo capito, ma tu ridi. Che amarezza, ragazzi, che amarezza. Tu ridi, ma lo sai che ci sono le separazioni che il cane, il gatto, il criceto, non lo so, diventa... l'elemento. Speriamo comunque. Ma non erano sposati, quindi Berlusconi non dovrà sganciare altri soldi per gli alimenti. Va bene, quindi questa notizia ti interessa quanto? 5. A Roma c'è il nuovo capo della procura di Roma, Prestipino. Sì. Mm-hmm. Questo mi interessa zero. Va bene. Interessante il nome, Prestipino. Guarda, ma in serio. Allora, vediamo un attimo. Ragazzi, c'era una notizia bella dell'altro giorno, ecco. Quella che ti ho mandato io. Ricordi? Sì, di quel signore che non è riuscito a pagare gli alimenti alla ex moglie. Sì, e li ha pagati in pizze. È un pizzaiolo, ha proposto di pagare al posto degli alimenti, di pagare la moglie in alimenti veri, cioè in pizze. La moglie non ha accettato e poi il tribunale invece ha dato ragione al pizzaiolo, che diceva... Capito, ma cosa gli deve dare? Tipo 500 pizze... Ma scusa, Margherita. Gli alimenti si chiamano alimenti? sì, è quindi vero. Se lui dà veramente degli alimenti è proprio la cosa più giusta. Lui voleva dargli alimenti in pizza, essendo pizzaiolo. Pizza. Lei ha detto no, mi sembra di ricevere la carità. E poi il tribunale ha dato ragione a questo signore pizzaiolo. E quindi finalmente ha avuto la sua rivalsa. Sì. Bene, è un buon segnale. Invece voi guardate la foto pubblicata dai giornali di Greta Thunberg come guarda il presidente del Parlamento David Sassoli che gli porge la mano, Guardate la faccia di Greta Thunberg, guarda questa mano come se fosse un alieno dell'area 51 negli Stati Uniti, come dire, devo darti la mano, devo stringere questa mano. E la foto, a volte a me colpiscono più le foto di tanti altri. Chissà cosa farà Greta Thunberg nella vita, tu cosa dici, cosa diventerà? Cosa farà tra 10 anni? Non so, magari fonderà un partito con Di Maio, visto che non sai cosa farà Di Maio. Allora, se mettessi una bella fabbrica con delle ciminiere inquinanti, magari troverà una formula. Oh, vai, dai. Magari troverà una formula più efficace dell'elisir del dottor Meazza. Questo è impossibile. Dottor Meazza ha l'elisir che funziona per tutto. Adesso ho visto che sono in produzione altre bottigliette con una nuova etichetta. E anch'io, sì, cioè? Anch'io ne prendo. Ho visto le foto l'altro giorno quando ne ho approfittato per fare una foto al dottor Meazza mentre era in studio con noi, e allora lo sto aiutando a produrre delle nuove etichette che presto lancerò sul mercato. Stupendo, dai, intanto andiamo alla borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Giuseppe della Torre, del popolo, dei Totti, dei Sanguinetti, dei Sanguinetto. Mamma mia, siamo al top. Ma se gli spettacoli sono sospesi, si può sapere perché quel pelandrone lì non viene a lavorare o no? Manera, metti qualcosa online su Netflix, dai, scusa, ormai quella è la via, dai, lo sai benissimo, questi spettacoli in questi postriboli, dove vai tu? Basta, globalizzati un po'. Ha ragione, stupendo. Ha ragione, dovrei un po' aggiornarmi, dovrei fare così. Ma se c'hai ancora il sito in costruzione da 3 anni. L'ho un po' innovato. Adesso l'ho riaperto. Aspetta, aprimi un po' leonardomanera.it. È ancora quello che c'era tanti anni fa, però adesso si può accedere. Leonardomanera.it. Sì, mamma non mia! Ragazzi, ma cosa aspettavi a dircelo? Ti si apre un mondo. C'è la biografia, no. Biografia, andiamo a leggere. Biografia. Scusa, biografia 1986 diploma, ma biografia nato. Ma scusa, c'è tutta la biografia. Biografia c'è formazione, non c'è biografia. Biografia è sono nato a. Cioè, intanto. No, ma che biografia? No, quello è tutto. Vado a leggere il cinema, quello che ha fatto il cinema 99, la grande prugna. La grande prugna. Bravo, il fenomeno lui. Ma no, quel grande attore che ha fatto. No, io zero. Come la grande prugna? Hai fatto 4 film. Porca cosa ha fatto? La grande prugna, poi Ma Fan S'appelle Maurice. Ma Fan S'appelle Maurice, non lo so. L'ultima battuta, regia di Federica Martino, in onda sulla rete Rai, e poi Una notte da paura. Sì, l'esperienza più amara è stata Ma Fan S'appelle Maurice, era una commedia erotica girata in Lussemburgo di Jean-Marie Poiret. Dove tutti parlavano tedesco, io non capisco una parola di tedesco, quindi ero assolutamente emarginato. Solo in Lussemburgo pioveva sempre. Dovevo fare un cameriere che portava nelle stanze d'albergo delle cose che servivano per i giochi erotici di queste coppie. Un film veramente brutto. Amaro. Venivo trattato male anche dal regista, perché lui parlava in tedesco, io non capivo le indicazioni che diceva lui, quindi ha iniziato ad arrabbiarsi con me. Poi andiamo a vedere un po', allora questa, beh, la TV è ovviamente molto lunga, Festival di Cabaret, la formazione, il calendario, c'è il calendario finalmente su leonardomanera.it, il calendario è fermo in questo momento, in attesa di risposta da leonardomanera.it, le foto, ci sono le foto in attesa di risposta, video in attesa di risposta, ma che cacchio di sito è? Vabbè, intanto c'è la biografia. Archivio già un in passo. Attesa di risposta. Cioè hai aperto solo il sito per mettere la biografia, ma non c'è scritto dove sei nato. Beh, non c'entra dove sono nato, però intanto si può accedere, è già un passo avanti. Io con calma faccio tutte le cose, ci vuole solo un po' di pazienza. È anche bella come delle foto. C'è anche la famosa barzelletta che ti accoglie, quella del tricheco. Ce la vuoi ricordare? Devo togliere, sì. Ma no, perché? Tutto è relativo per due denti, cosa vuole che siano, disse il dentista, tutto per me, rispose il tricheco. Qui la comicità sta nel fatto che il tricheco di solito non va dal dentista. È un famoso politico del sud, quando tu spiegavi con ironia le barzellette, poi ti disse, avvicinandosi: lei pensa che siccome siamo del sud non capiamo le barzellette? C'è bisogno, sì, di spiegare. Esatto, mi disse così, un po' seccato. Un politico che è... Ma sì, chi se ne frega. Giuseppe, sì. Giuseppe da Crema, cosa volevi dirci? Aspetta, Giuseppe da Crema, no. Sentiamo Giuseppe da Crema, che ha tre figli. Buongiorno. Mi dicono, tre figli. Sì, sono io. Niente, buongiorno a tutti e due e grazie e complimenti a Manera che è bello dentro. Ecco, niente, grazie, sto grazie. Che io ho tre per figli. Il resto, effettivamente. Ok, io ho tre figli, sì? Sono a casa tutti e due. Non dico le classi che fanno perché altrimenti li sanno subito chi sono. Ah, vabbè. Niente, i compiti a casa li mandano sul computer da scaricare dalle schede e basta. E ti arrangi. Non è vero che fanno video così che vabbè, l'insegnante di prima invece sta lì, risponde, si adegua, cioè, come dire, invece lei, Giuseppe, dice gli insegnanti dei suoi figli, bello che dice non li dico, se no li identificano, teme, sì, subito delle tre ritorsioni clamorose. Teme. Sì, perché li riconoscono subito. Perché sono in tre, sono molto vicini, ecco, dunque sono gli unici che ci sono nella classe e sono anche nel plesso di zona rossa. Eh sì. No, ma capisco che Giuseppe invece, devo dire, anche gli insegnanti dei miei figli hanno mandato, poi adesso aggiorneranno, si modificheranno, però di base hanno detto, vabbè, per tenervi allenati ripassate questo, studiate questo, fate questi compiti. La cosa che si capisce è che non c'è una regola in Italia, ci sono alcune scuole che sono organizzate in un modo, ma questo è per forza. Effettivamente è un po' così, visto che dipende dai dirigenti e dalle scelte. Ringraziamo Giuseppe da Crema. Allora, devo dire che forse lo recuperiamo a sto punto, se può, domani, perché il presidente della provincia di Trento è in aula, ma stanno affrontando il tema del coronavirus, che è un po' più importante dell'orso, che però... Intanto M49. Pensa se l'orso è il coronavirus. Magari si è preso il coronavirus anche l'orso. Fatto il ritorno del salto di specie nell'orso. Guarda, guarda qua che uno ci manda una bellissima foto tua. E con una scritta sotto fluor. No, in realtà ci manda la copertina del tuo libro. Ecco, anche i libri. Sole, cuore, fluoro. Hai scritto questo di Kowalski. Perché ridi? Perché di quel libro vennero fatte due copertine. Perché? Una. Allora, io litigai col grafico ai tempi. Ecco, ma tu litighi con tutti. Sì, in questo caso litigai col grafico perché lui nella prima copertina del libro la volle fare con la mia bocca che è, con le labbra molto in fuori, no? Infatti un po' questa, di gallina. Questa mi è arrivata così. Mentre dico fluor, io ne volevo una più normale perché sapevo che poi quella roba sarebbe rimasta per sempre sulla copertina. Sì. Allora lui, seccato, mi disse: ma tu sei conosciuto per questa cosa, è inutile che faccia altre. Come dire, altrimenti se fai altre cose non ti caga nessuno, quel maledetto cane del grafico di allora. Senti un po', aspetta, intanto segnalo che leonardomanera.it in questo momento è in crash. Non si entra più, forse sono entrate 7 persone e il server è crollato. Prego, vai pure, Leo. Allora, dopo si resero conto che quella copertina era brutta e nella edizione economica fecero una foto più normale. È orrenda, ma non tanto per la faccia, sì, che sembra che ti esca la faccia, ma poi ci sono delle cose stellate intorno. Abbastanza, sì, è veramente brutto. Devo invece dire che tra tutti i libri che hanno fatto i comici, quello è secondo me dignitoso perché nella prima parte c'è tutta la gavetta, i racconti della gavetta che sono anche divertenti. E comunque quel libro vendete discretamente. Dai. Comunque adesso va. leonardomanera.it, eccolo qua, eventi aziendali, formazione, chiamate Cecilia, date pubbliche, chiamate Angelo con i cellulari. Se tanto adesso è tutto sospeso. Guarda che io poco alla volta risolvo tutto, l'INPS in un anno... risolta. Adesso il sito in un altro anno almeno l'ho riaperto. Ho i miei tempi un po' lunghi. Oh, ma è bello questa cosa, ma c'hai anche le barzellette che cambiano. Adesso su contatti c'è quella del ristorante dei bruchi. Ce n'è, no? Se tu clicchi sul sito. Non ricordo perché sono vecchissime quelle. Hai i bruchi nel piatto. Cameriere. Sì, perché ci sono dei bruchi nel mio piatto? Perché lei ha chiesto delle farfalle al dente, una cosa così. Molto al dente, molto al dente. E questa è la barzelletta. Se voi cliccate contatti, se voi cliccate links al maneggio, sì. Al maneggio. Vorrei un cavallo da montare. No, no, già pronto. Se sono clicchi, di alto livello, vedi? Sì, di altissimo livello. Foto. Non amo i ristoranti egiziani. Hanno le sedie a forma di piramide. Sì. Biografia, niente, lo stesso, è perché si fa fatica a entrare, ragazzi. Niente, un server. Ma tempo un anno, anche quello sarà meraviglioso. Quello, sì, ci vuole un po' di tempo, bisogna dare tempo. Il blog. Cose, ecco. Questo è veramente l'insegnamento che stiamo prendendo dal coronavirus, per tutti quanti, per tutte le cose. C'è tempo. Ecco. Darci un po' di tempo per risolvere tutto, e col tempo poi tutto andrà a posto, vabbè. Basta avere un po' di pazienza. Hai visto che chiusa filosofico ho fatto veramente, partendo dal mio sito? Veramente, sentiamo il traffico. Va. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10:47 minuti, avete sentito, insomma, il traffico è innegabile, che ci sono le persone che approfitteranno di questi due giorni, chi potrà andare a fare un giretto da qualche parte. E allora noi abbiamo i consigli della mitica Vagone Tour. Sì. Se ci parte anche una simpatica base musicale, possiamo entrare nello spazio di Vagone Tour International, l'agenzia viaggi per i viaggiatori che non si accontentano delle solite mete. Ad esempio, pensate di andare nel deserto del Marocco a scivolare sulle dune? Wow. Sconsiglio, la vacanza dura una settimana, la sabbia nelle mutande dura molto di più. Vabbè. Oppure, alle scoperte delle meraviglie della Via della Seta? Sconsiglio, meglio il cotone che va in lavatrice. Piuttosto, grazie alla nostra agenzia viaggi Vagone Tour International, potete visitare la graziosa località di Beronzi Superiore, un piccolo gioiello della penisola, ma inspiegabilmente non ancora invaso dal turismo di massa. Per la verità, la settimana scorsa a Beronzi ha festeggiato il carnevale in piazza, ma è stato un flop perché tutti si sono messi la stessa mascherina. Ma a Beronzi Superiore gusterete una vacanza gradevole, come le bottiglie lanciate nelle campane del vetro alle 3 di mattina. E allora perché non cogliere questa opportunità? Allora, caro Alessandro, partiamo subito dai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori dei Vagone Tour International. Prendo nota. Chi sceglie? Benissimo. Chi sceglie di visitare Beronzi in questa stagione può approfittare dell'esclusiva promozione UE Beronzi. Una simpatica gara da fare in famiglia. Chi riesce a sbloccare il telefono dei parenti e a leggere tutti i messaggi ha subito 2 euro da spendere negli esercizi locali. Ma. Sempre che riesca poi a camminare normalmente e autonomamente dopo che l'avranno beccato. Ma ora è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi Superiore, cose che vale assolutamente la pena di vedere e conoscere. La prima attrazione da vedere a Beronzi Superiore è Plinio, l'uomo con la forfora. Sì. Plinio. Se l'uomo con la forfora, se Plinio fa no con la testa, gli altri si mettono gli occhiali, come quando sei in spiaggia e c'è vento. Il giorno del suo matrimonio, Plinio era in bianco il giorno del suo matrimonio, come la sposa. A Natale i bambini fanno il presepe, poi Plinio ci mette la neve scuotendo la testa. Quando Plinio è stato fermato dai carabinieri, hanno guardato i sedili e l'hanno arrestato per spaccio. No. Sembra che tutte le giacche di Plinio abbiano le spalline sì. bianche sì. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono moltissime. Per esempio il Pony Express, che mette i pantaloni con il cavallo basso. È una simpatica battuta. Oppure il politico amante del karaoke, che parla sempre con la stessa base. Oppure l'uomo che ha il tic di strizzare un occhio e viene continuamente denunciato per molestie, ma è solo un tic. Ma sono tutte cose da vedere a Beronzi Superiore, perché le sorprese a Beronzi non finiscono mai. E allora prenotate subito la vostra vacanza con Vagone Tour International. Sempre, Peronzi. Sempre. Vabbè. Eccola qua, Lucia. Lucia da Mantova sta consultando il sito di Leonardo Manera. Lo trova molto divertente. E mentre invece un ascoltatore, Leo, dice: mia moglie fa siti internet, da tua fan si offre consulenza gratis. PS, siamo di Peronzi. Siamo di Peronzi, scrive. Non lo so. Adesso, entro un anno anche il sito andrà a posto. Anche, ecco. Anche grazie. C'è un'altra barzelletta, l'ho trovata. Mio cugino vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. Questa non la ricordo, sai. È pessimista? No. O è alcolista? Alcolista. Oh, non è una gran barzelletta. No, non è una gran barzelletta. C'è Roberto da Pesaro. Buongiorno, Roberto. Buongiorno, salve, salve. Eccoci. Sì, volevo dire, facendo sempre attenzione che si parli di un argomento molto delicato, che io temo fortemente che questa emergenza del coronavirus sia semplicemente un'emergenza che non esiste, perché l'influenza, questo si tratta di un cortocircuito mediatico che poi è stato recepito dalle autorità, da tutti quanti, e ha creato un panico enorme. Ma scusi, gli infettivologi si sono bevuti tutti dei grandi alcolici. È vero che c'è questo virus, è evidente che c'è, ma l'influenza fa migliaia di morti l'anno solo in Italia. Questo virus ne ha fatta forse qualcuna. Va bene, muoiono migliaia di persone per incidenti stradali. Allora, con molte più ragioni, dovrebbero bloccare l'Italia, perché ogni anno c'è l'influenza, ci sono gli incidenti stradali. Roberto, vanno, mi scusi, bene, lei Roberto, che lavoro fa, per curiosità? Io sono un consulente ed uno scrittore. Consulente e scrittore, perfetto. Io faccio il giornalista, Leonardo Manera fa l'artista. Che ne sappiamo noi? Cioè, ne sappiamo noi, lei, io, più di Burioni? Più di Galli? No, di Burioni sicuramente no, in merito ai virus. Allora? Ma il fatto è che il signor Burioni, di cui leggo e anche ho letto ultimamente questa mattina, no, il parere, lui dice: fate molta attenzione a coloro, no, che dicono, no, che minimizzano. Ecco, lo sentivo. Perché io, con tutto il rispetto per lei, perché devo credere più a lei che fa il consulente, ecco, e non ma dico Burioni, ma dico anche delle cose, ma dico anche l'Istituto Superiore di Sanità, il professor Galli, cioè tutti i medici. La capisco benissimo. Allora, l'infettivologo Burioni sa benissimo che c'è un virus, e fa benissimo il suo lavoro a dire: fate attenzione che questo virus si diffonde, oltretutto non c'è una cura, come tutti gli anni si cercano le cure per le malattie nuove che poi si trovano, eccetera, eccetera. La verità è che questo è il mestiere dell'infettivologo, vuol dire attenzione, perché questo virus si può diffondere. Il buon senso delle persone sarebbe anche nel dire: sì, ma si diffonde anche l'influenza. Se vai in giro per lavoro ci sono incidenti stradali. Ma l'influenza c'è. Ma cosa c'entra gli incidenti stradali? Ma lui si occupa di incidenti stradali, parleranno gli esperti di incidenti stradali. Sì, ma questo si è trattato di un cortocircuito mediatico. Ma non è un cortocircuito. Cioè, lei sta dicendo che è una bolla di sapone. È un cortocircuito. Questa cosa, ma l'effetto di questa cosa è stato amplificato a dismisura. Per cui ha bloccato l'Italia. Ma mi scusi, ma se il Presidente del Consiglio ascolta il comitato scientifico, quindi scienziati, medici, e gli dicono: chiudi le scuole, ma che si sono inventati i medici, gli scienziati, questa pazzia? Cioè, per bloccare l'Italia, per divertimento? Leo, dimmi tu. No, è la cosa che hanno ribadito tutti, è che il problema è quello dei posti in terapia intensiva, che se c'è un gran numero di persone che ha bisogno di andare in terapia intensiva, senza la terapia intensiva queste persone morirebbero, e se tutti si ammalano di colpo muoiono tutte queste persone, perché non sono più letti in terapia intensiva. E non ci sono intensiva. I medici, questo, come ci ha detto e prima. Non ci sono i medici. Questo è il problema, diciamo, principale. Comunque, adesso, sempre con tatto, però, dire è tutta un cortocircuito mediatico vorrebbe dire che tutti gli infettivologi che si sono espressi fino adesso, virologi, epidemiologi, fanno parte di un cortocircuito, cioè si sono ammattiti, sono messi d'accordo a dire: ma sì, dai, che bello, blocchiamo tutta l'Italia, proviamo a vedere l'effetto che fa. Insomma, la sostanza, per fare un paragone che non c'entra niente, Rocco Siffredi è un grande amatore, ma se tutte le donne di colpo vanno da lui, non ce la fa più neanche lui. Questo è il paragone col sistema sanitario. Se tutti vanno lì adesso e hanno bisogno di letti in terapia intensiva, mia si fa. Secondo me sai che così l'hanno capita tutti. Tutti, tutti, tutti. A domani. Nessuno, nessuno, 100.000 anni.